Non c'è problema, va bene. Sì, io intanto me la tutta metto le scarpe a tennis, Marco, perché potrei anche scendere in pigiama, mi giù. Però magari, capito, trovi qualcuno in ascensore, no, non mi piace. No, qua, vabbè, no, io come investo la mattina anche in casa rimango vestito perché c'è sempre un imprevisto, ho una cosa da comprare, ho bussa qualcuno, a me non piace aprire in mutande, vabbè, in estate oppure in pigiama, no, non mi piace. Sono sempre pronto all'uso, mi. Anche perché, vabbè, per periodi passati, no, che eravamo in preallarme quando era stata male mamma, cioè devo essere pronto in qualsiasi istante di uscire in macchina, qualsiasi cosa, dai. Va bene, chi altri c'è rimasto? Pomponi è rientrato? Oh, Pomponio, oh, entra un po' a parlare, dopo due minuti sparisce, scompare, proprio scompare. Beh, come quella canzone, come la canzone di, come si chiama, di Lamborghini, come si chiama, di Elettra Lamborghini. Tutto il resto scompare, tutto il resto scompare, anche lui così. Ah, Elettra Lamborghini, quella senza soldi, quella poveraccia. Lui mi si era accontentato delle chiappe della Lamborghini io. Ma tutto sempre delle chiappe sue, mi sarei accontentato dei sedili io della Lamborghini. Ah, della macchina, no, no, io parlo di Elettra Lamborghini, quella porcacciona, mamma mia. Oh, sai chi stravede per Elettra Lamborghini? Ivan. Perché ci c'è una come lui, c'ha il culo come il suo. Però, caspita, vabbè, io ho sempre avuto ragazze robuste, non dico ciccione, ma robuste, in carne, e a me piace vedere materiale, mi piace vedere. Quando, adesso niente più, adesso sono in ferie, chiuso per lutto, mi metto i boxer con la scritta, chiuso per lutto. Brutto porcellone. Allora, la mutanda quella col coso di ferro, mettiti, va bene. Ho cambiato il radio, dai, far andare anche un po' il 440 che da un standby, ma la modulazione non cambia, dai. Ehi, è diventato Gianni, ma stai dicendo la cintura di castità? Lo sai come la chiamavo nel Medioevo? L'uccelliera. E c'era proprio questa specie di forma, tipo perigioma, e poi c'era la gabbietta per contenere proprio il mangagliò. Una cosa allucinante, mai vista l'avevo. Esistevano veramente, erano cose medievali, però erano soprattutto per le donne, capito? Per evitare che quando i cavalieri andavano a fare la guerra, le mogli andassero così a pescare da una parte all'altra, capito? Marco, un attimino, dai, saluto tutti cordialmente, sto chiudendo che sto uscendo col cane, dai, ci sentiamo magari un altro momento, ciao a tutti, ci sentiamo, buonasera. Ciao, già, ciao, io sono entrato adesso, sto aspettando la dottor Mezzo, arrivo alla pizza. E poi spengo tutto, già hanno scaldato oggi la radio, sono da stamattina accese, anche se le usate poco, ma comunque adesso le invertite. Già va bene, vai Anto. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao Gianni, alle prossime, ci sentiamo. Invece chi su chi si pone la base, chiama lo spaccatrugno. Ma lascia perdere che io ho notato una cosa strana, che non so se come penso io, allora, le normali mutande boxer, no? Di cotone o anche di nylon, quando si rompono sempre esclusivamente in corrispondenza del buccio, ma è per via delle fucilate, cos'è? Cos'è acido lì? Zona acida è. Una cosa. E le mutande, io uso i boxer, no, quando si rompono, che siano di cotone, che siano di nylon, si rompono sempre esclusivamente in corrispondenza del buccio del sedere, delle cannonate che tiro. Maria fa petrolio, cosa? Invece di fare aria, di solito si fa aria, tu vuol dire dai la siringata di benzina, con tutto questo che ti mangi, cazzo, ti mangi poco di petrolio, ghiaia, cemento. Allora, l'altra notte ho mangiato fainegole e cipolle e come secondo cavolfiori e insalata, non ti ne dico nulla. Poi mi chiedete perché c'è la maschera antigas. Allora sono gli abbinamenti che fai? Beh, ti mangiavi un po' di fane e basta. Altrimenti un bel po' di cavolo e insalata è buono. Noi stanotte abbiamo le pizze e anche la fainè. Però l'abbinamento è quello, insomma, dai. Non è che si scappa, ma cazzo il cavolo. È come che mangi la fainè e poi ti mangi un piatto di fagioli, la stessa cosa. Mamma mia! È come quel film di Alvaro Vitali che involontariamente si beveva da una bottiglia di vino, c'erano i pallini per pulire la bottiglia, i pallini in piombo, e per farli diciamo evacuare gli hanno fatto mangiare. Vi ricordate quel film? Pasta e fagioli, e quando era in camerata, no, al coso militare, tirava delle fucilate calibro 12, si sentiva il rimbalzo del pallino, vi ricordate quel film? Già me lo ricordo, Pierino, me lo ricordo il cazzo, guardo, ogni tanto li danno a Cine 34, questi film così, ogni tanto ne danno uno. Oia, ma a volte non sai manco cosa mangiare, minchia, cazzo, è un casino, è un casino, speriamo che non si sbagliano in casa, sennò, Però te l'ho detto, sembra che ci abbiano quasi abituato a parole, che dovevamo fare una seconda ondata di questo lockdown. Vabbè, comunque Claudio, anche se rimani in casa, le radio ce le hai, sicuramente entrerà più gente perché saranno tutti costretti a casa, un po' si animerà, si spera. Claudio, la frequenza, non Radio Mondezza. Vabbè, anche le portanti rientreranno, magari appunto perché c'è gente chiusa in casa, rientreranno anche le portanti. E vabbè, ma canali ce ne sono tanti, trucchetti ce ne sono tanti, si può scappare in PMR, si può scappare su canali. Quando mi rompo un ricatto ripongo l'attacco l'amplificatore, vabbè, voglio vedere. E vabbè, in città già sentiamo bene o male. Ieri ero all'ascolto e c'era una portante, era 9.15. Oh Claudio, allora Franco non passava, solo che ieri ero stanco morto, distrutto perché sono stato tutto il giorno fuori per questa storia del notaio, ho dovuto fare il giro del Menga e quindi ero all'ascolto un pochino. E Franco non passava, Gianni passava a malapena, tu ovviamente passavi di brutto. 9.15. Qua era lo stesso, quel segnale lì, 9.15, perché Gianni passava, da me passava, io passavo da lui un po' così, insomma, nel bene e nel male, mentre Franco non passava per niente. Sì, ma cazzo di gusto ci prendi, a fa cosa, a disturbare tre persone, stanno scambiando due chiacchiere, e lì il problema, capito Marco? Il problema nasce sicuramente lì, quando saremo richiusi a casa di nuovo inizia il casino. Io manco pensando ci sto, guarda, me ne vado in altre frequenze e si abbia il culo. Se per casino sì, Eia, anche se una volta io ho visto una portante anche in PMR e copriva tutti, persino te, c'era una cosa folle, silenziava tutto. È come se fosse proprio roba grossa a me, e antenne anche professionali. E cosa ti volevo dire? Già me ne sono dimenticato, di radio, di apparati, aspetta, cos'è? Non me ne ricordo, porca miseria. Vabbè, riprendete, vado a bere. Ma se mi accorgo la portante, no, che metto l'alimentatore più pulito. Attacco l'ambaravà, poi voglio vedere se si yoga con la macchetta, la pipì, signorino. Io penso che da te passi a voglia. No, volevo, mi sono ricordato, però la portante è durata anche poco, quant'era? Un minuto, cioè non è che fosse tutta la sera. Io ho sentito un tipo un minuto di portante, poi è sparita, però non ha più ripreso. Adesso ti spiego perché. Allora, anni fa, col Kenwood, no? Una volta accendo il K, e sentivo tutto silenziato, non capivo, vedevo la lancetta che saliva. Cosa cavolo è successo? Praticamente c'era il PTT premuto. Io non ho capito se era già premuto la prima o come mi sono sporto dal bracciolo delle, come si chiama, del divano per premere il pulsante, magari col gomito l'ho pigiato. Insomma, non capivo cosa stesse succedendo e poi mi sono accorto che era in trasmissione. Cioè, si è acceso direttamente in trasmissione, o comunque nel momento in cui ho acceso, si è pigiato il PTT ed era involontario. Per fortuna l'antenna era collegata, se no avrei bruciato anche tutto. Vedi, sono sviste e avevo pensato che fosse anche una cosa del genere, qualcuno magari che come ha acceso l'apparato c'aveva qualche microfono da tavolo e il PTT premuto non se ne sia accorto. Esatto, cazzo, il PTT premuto non te ne accorgi. Apposta l'ha fatto, già, lascia perdere. Ma per dire, io quella volta del K, io quasi, cioè vedevo la lancetta salire e ho detto ma è una portante, invece era successo anche a me, era successo anche a me. E ripeto, per fortuna l'antenna era collegata, se no partivano pure i finali. Infatti sui manuali di istruzioni moderni dei baracchini attuali scrivono sempre collegare l'antenna prima di accendere l'apparecchio, collegare sempre l'antenna. Perché scommetto che più di uno, magari non sapendo, l'ha pigiato il PTT, puff, i finali partiti. E vabbè, sono cose che possono succedere, non è che io sto molto attento alla strumentazione, conoscere la strumentazione, io ho la T230 di linea dove c'è il 430, il 440 e il 140, quindi sono le posizioni 1, 2, 3 perché sono in linea, capito? E guardo lo strumento se sta erogando watt, se c'è a proposito stazionari 1, rapporto a 1. Va bene, quindi niente, cioè bisogna tenere sempre sotto controllo o la radio, lo smitter della radio, in questo caso posso tenere anche quando sto andando col 440 questo perché lo metto in power, è a zero, cioè in SW2R è a zero, in power è a 20 watt, quindi oscilla a 50, e vabbè, però può succedere, ma quello non era una cosa perché... Ha provato anche a schiacciare TTTTTT, capito? A fare... non a lasciarla fissa, quindi è una cosa fatta apposta, ma comunque ognuno c'ha i suoi gusti. Poco mi interessa, ma io se riesco a passare va bene, se non passo chiudo tutto, non pensare che mi metta a sprecare corrente, no? No, se non passi tu è grave la cosa, qua... Poi io gente veramente vicina non ne ho, cioè più vicino che può essere, oddio, adesso che ci penso, Natalino è più vicino per esempio come distanza ottica, però una volta c'avevo Sandro Satellite, era in via Principal Saiolanda, ma lui era proprio, cioè staccava le antenne ed era lo stesso fondo scala. E poi aveva cambiato casa, eccetera, eccetera. Non siamo né più visti né più sentiti. Poi la 27 molti l'hanno proprio abbandonata, perché forse non c'era passione, lo usavano solo come adesso usano WhatsApp, cioè c'è questo mezzo di comunicazione e ok, usiamo questo. Poi quando ne uscirà uno nuovo lo abbandonano, come hanno abbandonato anche tante chat antiche, la chat IRC, non so se tu la conosci, la chat IRC prima era più presa d'assalto, ma è brutto. Adesso sono entrato su un canale italiano, era mortuorio, proprio, sono tutti WhatsApp, Facebook e tutte le altre cose. E così andrà anche Cibitalk, che dopo l'impatto iniziale, piano piano con i mesi, con gli anni, sparirà la gente da lì e migrerà verso altri sistemi. E così è stato anche per, come si chiamava quello tipo Walkie Talkie, prima di Cibitalk, Zello. Sono provato a entrare, ho cercato i canali soliti, quelli di tendenza, no? Aperti a tutti, mortuorio. Va bene, signori, io quasi quasi chiudo, che adesso mi accendo la TV e mi conosco sulla poltrona. Dai, ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Gianni, se non mi ricordo se ha chiuso definitivamente o se all'ascolto, e tutti quelli all'ascolto. Dai, ci sentiamo, vai Claudio. Va bene, sì, sì, anche io, sono già quasi da 8:30. Ciao Antonio, ciao Marco, ciao a chiunque fosse qua in ascolto. Buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Aspetta la prova. Antonio, no, non passi. Sì, ho pari e comunque ti disturba, però collineare, diciamolo. Ha fatto la prova Antonio. Lo passo. Oh, abbiamo inteso. Stavo scherzando, stavo. No, stavo facendo una prova, stavo facendo una. Sono io anche. Allora di modulazione passa Claudio. Segnale uguale, modulazione passa Claudio. No, vabbè, quelle sono prove così innocenti, tanto per fare. Però con lineareto, di la verità. Chi sei saturo? No, io non ne ho lineare, io so come ti fa, non ne ho lineare. Ma sto regolando le stazionali. Non ne ho lineare, io non ne ho. Ti ricordo che è attaccato a te. Ma non ce n'è problema. Sono sempre il numero uno. Sei fissato due Antone, ti passo. Allora quando fa video c'è già vostro. Attacco lineare e non manco la portante fatti vostra revita a Damasco, usci in pace. via. Già sta bene, non fai lineare, lasciatelo stare, santa pace lineare, che poi vi fate male da soli. Perché poi non è il problema di essere uno più forte dell'altro quando siete tutti vicini. Il problema è che non c'è una sassare, che non sente un cazzo, sente solo i vicini di casa. Poi c'è un break da Arghero, non lo sento. C'è un break da fuori, non lo sento. Ma allora cosa vuoi fare voci? Adesso, cioè non lo so, Arghero non l'ho ancora sentito nessuno. Vediamo, dai. Vabbè, ma già visto l'altro giorno stavamo parlando noi due, no? C'era il break, da Rovera, da dove siamo? Noi mi sentono in tutta la Sardegna, io non ne ho problemi di fare gare con nessuno. Se poi decido di annientarvi tutti, sono capace anche a farlo, non è un problema. Vabbè, cosa mai, non fate la guerra. Però io dico che ci ha buggato, attacca il fregatore, il vostro casino, ma cosa me ne frega. Antonio, dove lo fai il casino? Entro Sassero fai il casino. Non puoi competere con me, Antonio. Nessuno può competere, lo sapete tutti che è così. La realtà è quella. Senza nessuna presunzione. Io ho una zona che non ho competenza con nessuno. Potete fare i forti uno vicino all'altro, poi se ve lo faccio fare, perché se poi attacco io non ho 60 watt, 70 watt, 100 watt, c'ho un kilowatt e mezzo, e poi cosa succede? Che io inizio a fare come gli anni 80, mi sposto di canale, mi stai sfratterando, mi stai facendo, mi stai qui, mi stai là, e come stai nel gasino. Ma viviamo sereni. Prove così fatte a bozzate, non è questione di cosa, dai, era una prova. No, ma lo so che è una prova, non mi interessa a me. Non mi interessa, tu c'è un ultimo segnale qua, molto alto, evidentemente abbiamo qualche varco, ma io sono sempre con la potenza della radio, non ne ho problemi. Tanto so che mi sentono tutti, quindi se poi c'è a fare qualche prova, allora le prove si fanno, non è un problema per me. Tolgo a Gigi, lo metto l'armadio, lo metto qua, anzi non c'è bisogno manco di togliere a Gigi, già basta l'RM Italy. Quello è il grosso di apparecchio. Cos'era? Un 7 o un 8? 8 è. Vai tu. Mamma di turchi. Cosa ti volevo dire? Ho mandato le foto a Antonio dell'installazione dell'antenna. Cioè varie angolazioni, no? Come le vedi da una via, dall'altra ancora, eccetera. Però mi manca il video famoso della vista dalla terrazza a 360 gradi. Ho fatto un video breve, no, per far vedere dove erano le zone otticamente libere e quelle no, e non lo trovo più, non c'è nemmeno su YouTube, sparito. Abbiamo parlato in due, no? Ho detto, se non lo sai tu Marco, Sì, ma sai cos'è? Questa, qua è tutto un macello di cartelle, di file uno sull'altro, non... PDF, foto, video, tutta una cozzaglia, pagine internet, non tengo ordine nemmeno nel computer, nemmeno nello smartphone. Io, per me l'ordine non esiste, esiste il caos. E infatti si vede come era tenuta la macchina. Comunque qua stavo scherzando, stavo. Volevo fare una piccola prova, volevo fare basta. E forse l'hanno chiamato, dai, e sarà ora di cena. Vediamo se rientra così al limite. Vabbè, io ho salutato tutti già. Aspetta, rientri e poi chiudiamo, dai, così mi guarda la TV. Sicuramente sono arrivate le pizze, sono arrivate. Scusate, dai, che hanno suonato al momento che stava parlando Marco, dai. Vi saluto che è arrivato da mangiare. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Buonanotte, ciao ciao. Ciao, buonanotte Claudio. Ciao, buonanotte, buona pizzata, buon tutto e ci sentiamo le prossime. Bene, poi se recupero il video, vabbè, te lo faccio avere. Ho detto, poi è un macello, magari chiamano, lo trovo io. Non mi ricordo manco il nome del video. Vabbè, non è importante, dai, per darti un'idea di quello che... Poi ovviamente l'antenna è più su, quindi il discorso è un po' 5 metri più in alto, 4, 5, dai. Ok, dai, un po' buona serata con tutto e ci sentiamo il prossimo, ok? Ciao, ciao, buona serata. Ah, capo, stai chiudendo anche tu. E adesso mi devo, è l'ora della così, televisione, film, telefilm, qualsiasi cosa purché passabile. Cioè niente Grande Fratello, niente Isola dei Bavosi, niente, non ne guardo le roba trash, non più almeno. Ok, dai. Poi c'è tutta una manica di broci, cosa? Lascia perdere, dai. O se no quel programma, aspetta, come si chiama? L'ho nominato l'altro giorno, Temptation Island, no? Cioè mettono questi due sull'isola nudi e dovrebbe scoccare la scintilla l'amore. E come che prendi due cani, un maschio e un femmina, li metti dentro una stanza chiusa e cosa faccio? Cosa fanno? Scoppano. Grazie, ma l'amore vero è un'altra cosa. Il sentimento, non l'attrazione fisica sessuale. Un altro programma così, vabbè. Contenti loro. Marco, è nudi e crudi, mi sta dicendo Sara. No, quello è divertente perché vedi anche quello che succede a quelli, devono sopravvivere, bevono l'acqua inquinata. No, è proprio Temptation Island, praticamente fanno entrare in quest'isola tropicale un ragazzo e una ragazza, no? Un uomo e una donna, insomma, come lo vuoi intendere, nudi completamente, no? E poi fanno entrare, che ne so, un secondo uomo o una seconda donna, per vedere poi chi sceglie l'uno, come per far vedere come si formano le coppie, dai. Uno entra dopo per mettere zizzania, capito? Però è tutta TV di basso livello, cioè persino meglio Pippo Baudo a quei livelli, anche se era una paranoia. Io non so sani, chi sì. La gente so come ti dà giù definito. Anche un uomo sano vede una cosa del genere, ci si cuba tuffo, si vede una femmina nuda. Vabbè. Poi aspetta, vabbè, nudi e crudi è divertente, te l'ho detto, quelli poveracci devono sopravvivere al caldo, alle zanzare, devono mangiare quello che trovano. Io morirei in un giorno, lo so già, dopo un giorno sarei già morto, di caldo, di fame e chissà cos'altro, di dissenteria. Però è un programma di tipo survival e tu te lo ricordi quello che c'era anni fa, Bear Grylls, quello che praticamente andava nelle zone più isolate, che si mangiava di tutto, si mangiava ragni, vermi, pucci. Vabbè, ma io non è che se ne seguo a televisione, ma me lo dicono. Ah, sono una massa di bucaccioni, sai niente, vai, per carità. Poi ci stanno sottoponendo troppi, c'è Malgioglio, c'è Signorini, c'è Vladimir Luxuria con la terza gamba, e cioè, ci stanno abituando anche nei telefilm, ci stanno propinando, abituando all'idea dei trans, un po' boh, e anche cose peggiori, piano piano. Ah, poi il Papa l'altro giorno mi ha stupito, no? Perché, come dicevo io, no? Il Papa non è che dopo 2000 anni di cristianesimo può dire, beh dai, sì, facciamo sposare anche uomini con gli uomini, donne con le donne, no? Non lo può fare perché, cioè, non puoi, la Chiesa ha una linea di condotta da tenere, non è che può da un giorno all'altro cambiare idea. Dice, ma sì, oggi anche gay, lesbico, invece ieri si è uscito matrimoni gay, ci ha messo una buona parola anche lui. Boh. Vabbè, e chiacchierato questo Papa, non lo so, ma a molti non piace questo Papa. A me, io sono quasi ateo, quindi poco me ne frega quello che dice il Papa, però mi ha lasciato un po' sbigottito, vabbè. Ah, ti pare che io mi cocco, ho abbassato adesso, ti pare cazzo che io mi cocco un elemento del genere uretto, ah cazzo dici da rubacconi, cioè io da quando sono nato, viva le donne, viva la femmina, e boh, io mi sono preso una ragazza femmina e così voglio stare, andare a ammazzare niente, no, non è cosa per me, no. A me comunque fa vomitare, cioè toccare un maschio, vabbè, è lo stesso io, cioè, vabbè, però una cosa è rispettare anche tutto, gusti degli altri, religioni degli altri, eccetera, eccetera. Però piano piano ci stanno propinando anche in serie TV, tante cose, ci stanno, come dire, la finestra di Overton si sta allargando. Vabbè, io credo di essere di vedute larghe, ma forse non così larghe. Forse se divento gay me le allargano le vedute, non solo le vedute, pure la canna. Guru. Vabbè, a parte gli scherzi, io credo di essere moderno, ma poi non più di tanto. Dai, detto questo, chiudo credito esecutivo. Ciao, ci sentiamo, buona serata, buon tutto. Alle prossime. Se chi sa c'è moderno, viva la gnocca, cosa cazzo brocio, attinante. Dai, buonanotte, ciao ciao. Tanto ricordatemi, fra qualche anno diventeremo tutti come Malgioglio e come Platinette, capito? Quelle parrucche, tutti i culattoni. Una mare di vecchia, che ribizziglia lo demonio, ribizziglia, che schifo, guarda. Vai, no, ma vicina che torruginoso, vai, non ammarandi, tu. Da poi personaggio, tutti trans, tutti truccati, pucci. Vabbè, la modernità è quella, noi siamo i dinosauri, capito? Quella invece è la modernità che avanza. Ok, preferisco essere un dinosauro, ciao, buonasera a tutti, ciao. Preferisco essere un superuomo, preferisco. E ce la deve ficcare in sugunno, come dicono a Cagliari, e buh, ragazzi, sono solo macchie, buh. Ok, dai, buonanotte. Da un estremo all'altro, addirittura superuomo. Cos'era la teoria di Kafka? Di chi era quello scrittore della teoria del superuomo? Non me ne ricordo. Sicuramente qualche tipo Kafka e dintorni. Dai, ciao, corretti, ciao, ciao. Ciao, corretti, dai. Superuomo, perché come lo vedo mi ci butto a tutta potenza. Dai, buonanotte, ciao, ciao.